America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. 3D breast tomosynthesis, also known as 3D mammography. Ecco, avete sentito il newscaster che parla di una nuova tecnologia che si chiama 3D, tridimensionale, migliora la rilevazione dei tumori al seno, si chiama tomosintesi e l'idea è che questo nuovo test che si aggiunge alle mammografie digitali può aumentare la percentuale di rilevazione di tumori al seno e lo studio poi è pubblicato dal Journal of American Medical Association. La differenza è che questa mammografia tridimensionale ha una macchina che non è fissa, ma secondo la tomosintesi si muove intorno al seno, creandone con i raggi X un'immagine in tre dimensioni. Ecco, queste macchine stanno cominciando a diffondersi negli Stati Uniti e ci sono però già 1100 centri che usano o hanno a disposizione questa tecnologia. Ecco, ci sono, pensate, 38 milioni di mammografie ogni anno negli Stati Uniti, il costo complessivo è di 8 miliardi di dollari, tra l'altro contribuisce in modo sostanziale nella regione metropolitana di New York la American Italian Cancer Foundation, con un appoggio iniziale del professor Veronesi, adesso il filantropo che la sta seguendo si chiama Daniele Bodini. E dunque, tornando ai numeri, 232.340 nuove diagnosi di tumori al seno soltanto nel 2013, 39.620 di queste sono mortali. Ecco, però ci sono anche le buone notizie, perché 2,9 milioni di donne americane sono sopravvissute a un tumore al seno. Il 79% della diagnosi riguarda donne al di sopra dei 50 anni di età. Il tasso di incidenza è tuttavia altissimo, perché una donna su 8 a un certo punto ha un cancro al seno. Io vi parlo di questo perché ritengo sia importantissimo per le donne essere sensibilizzate sulla necessità di andare a fare una mammografia. Non sono un esperto, io ho con me invece uno dei massimi esperti qui in America, che è un italiano, un professore italiano, Virgilio Sacchini, che è professore di chirurgia nella divisione di senologia, quindi è proprio esperto di tumori e cancri al seno al Memorial Sloan Kettering, che è l'ospedale più importante del mondo per la ricerca e per l'intervento sul cancro. Buongiorno professor Sacchini. Buongiorno a voi. Ecco, e voi siete l'ospedale più importante al mondo per la cura del cancro. Avete di queste macchine? Ci sono già? Abbiamo queste macchine, tra l'altro è possibile adattare le nuove macchine di mammografia, le più moderne, con un software e un sistema particolare che costa circa 150.000 dollari per eseguire queste mammografie tridimensionali. È un investimento che lei raccomanda? Cioè, vale la pena di avere queste radiografie tridimensionali? Il corpo è tridimensionale e quindi l'immagine bidimensionale è sicuramente riduttiva rispetto a una tridimensionale, quindi sicuramente la mammografia tridimensionale ci dà una sensibilità maggiore. Ecco, lei crede che questa nuova tecnologia aiuta a fare che cosa? Cioè, dov'è il vantaggio da un punto di vista pratico? Il vantaggio è di diagnosticare lesioni più piccole e di avere una sensibilità maggiore, avere meno falsi negativi e meno falsi positivi, vuol dire diagnosticare più in modo preciso i tumori mammari. Ecco, lei come chirurgo ritiene che sia importante per le donne fare regolarmente delle mammografie? Perché purtroppo io incontro persone che dicono ma no, è meglio non farle perché ci sono i raggi, sono pericolosi, e questo soprattutto devo dire in Italia. Qual è il suo messaggio? Il messaggio è che la mammografia è una salvavita per la donna per questo tumore così frequente e permette di diagnosticare tumori piccoli che hanno delle migliori prognosi. Quindi sicuramente la mammografia è l'esame più importante per una donna per diminuire la mortalità per questo tumore. Ci sono delle controindicazioni che lei vede? Il rischio-benefico beneficio è sicuramente in favore del beneficio. Il rischio di radiazioni per una mammografia è come fare due viaggi intercontinentali in termini di assorbimento di raggi, e quindi l'esposizione non è un'esposizione dannosa, e c'è sicuramente un beneficio nel farla piuttosto che non farla. Bene, un'ultima domanda, professore. Lei registra un forte miglioramento nel tasso di successo per la lotta al cancro al seno? Negli ultimi anni c'è stato un miglioramento notevole nella cura, soprattutto perché conosciamo meglio la biologia di questi tumori, la genetica di questi tumori e la risposta di questi tumori ai trattamenti. I trattamenti sono più mirati, specifici, e le guarigioni naturalmente in incremento. Non ci fermiamo, vogliamo ridurre la mortalità a tasso zero, e quindi il progresso scientifico continua, e saremo impegnati molto nei prossimi anni per cercare di debellare questa malattia. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a seguirli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, abbiamo parlato di una brutta malattia, della necessità di giocare d'anticipo, è chiave giocare d'anticipo su questa brutta malattia, sul tumore al seno, della necessità di debellarla. E dunque, di Michael Jackson, Heal the World, sanate il mondo. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. America 24.